Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Paolo Vitelli, come arrivare a navigare nel lusso. A cura di Anna Marino. Nel DNA c'era la passione per il mare e per il motore. La storia di Paolo Vitelli, fondatore e presidente di Azimut Benetti, il più grande network di produzione di mega yacht e la prima azienda privata al mondo nella nautica di lusso, si può dire che sia partita da una fotografia. Lui, bambino, ritratto sulla spiaggia di Varazze, mentre abbraccia un motore di una barca. L'immagine ricompare poi in un momento particolare. Il giorno che mi hanno nominato ingegnere honoris causa, mia madre l'ha trovata fra i vecchi documenti di famiglia e l'ho fatta vedere come prima immagine a un migliaio di persone che assistevano a questa cerimonia, ed è stato un momento di incontro col pubblico molto caldo, perché esprimeva forse la mia personalità e tutto quello che si celebrava in quel giorno. Direi che il motore ce l'ho ancora, perché è il motore che siede nella nostra sala riunioni, un pezzo storico. La barca era una barca da 3 metri costruita dal cantiere Baglietto con fasciame clinker. Quella non ce l'ho più perché il tempo l'ha consumata, ma quello è il momento di partenza di tutto. Il secondo momento storico forse di contatto con la nautica è quando, dopo aver fatto un corso di vela fra i 10 e i 12 anni, fui promosso alla terza media e come regalo chiesi una piccola deriva di compensato marino di 8ª serie. Ho trovato nei documenti di famiglia una mia letterina scritta a mio papà, con cui la ringraziavo e che gli dicevo che io andavo in barca fra le 8 e le 9 del mattino e fra le 5 e le 6 di sera, perché questa piccolissima deriva da 3 metri, il Vaurien famoso, l'affittavo durante la giornata. La fotografia di me che abbraccio il motorino è molto patetica, perché c'è questo costumino di lana col pompon, c'è la spiaggia di Varazze ancora molto primitiva. Varazze era il primo posto colonizzato dai turisti, un po' più della borghesia torinese e milanese. Si vede sullo sfondo le barche dei pescatori, perché c'era ancora un'attività di pesca che funzionava sulla spiaggia, lavano le loro gozzetti sulla spiaggia. E c'è questo angolo dove appunto gli altri bambini giocano con i castelli, giocando con la sabbia, mentre io giocavo col motore. E tutti i colori sono grigi, perché la fotografia era in bianco e nero, sarà una fotografia del 50 o del 51, la tengo a fianco di quella della laurea. Classe 1947, originario di Torino, Paolo Vitelli è unico maschio dopo 2 sorelle. Padre industriale tessile con un cotonificio a Rubassonero, laurea in economia e commercio. I ricordi sono il filo conduttore anche dei primi passi della storia dell'azienda. I primi capitali provengono dalla vendita di uno tra i numerosi business che vedono Vitelli intraprendente e impegnato durante il periodo universitario. Il Tempo 6, un locale notturno gestito con altri 5 amici. Un club all'inglese dove si andava con la tesserina per i teenagers o i giovani della mia città. Questo, chiamiamolo ancora una volta pomposamente, nel club funzionò bene per 3 o 4 anni e poi ricevemmo un'offerta di acquisto. Lo cedetti perché era finita un'epoca e un ciclo, e con lo ricavato fondai con un amico l'Azimut, nata all'inizio come società di noleggio di barche e di compravendita di barche usate. Negli stessi anni, infatti, durante l'estate, Vitelli affitta una barca ed esplora la costa francese. Dalla passione per il mare e la navigazione nasce Azimut nel 1969, fino al primo salone nautico, è il 1970. Il primo salone nautico lo feci con delle barche di importazioni olandesi. Lo ricordo perché questa barca non era pagata e ho rappresentato l'unico cantiere che mi dava la barca in conto vendita, e tutti gli altri cantieri che avevo approcciato volevano che comprassi la barca. Ricordo che per risparmiare la gru collocavamo la barca al suo posto con un cavo trainato dall'automobile che fumava, che bruciava le ruote, ma che riuscimmo a fare questo lavoro. Ricordo anche che un cantiere olandese di standing medio-alto di quel momento era a fianco di noi e il proprietario seguì questa manovra dall'alto del flying bridge della barca. Appena iniziato il salone disse: beh, sentite, noi abbiamo trovato il concessionario ideale, anche se non compri la barca vorremmo che rappresentassi le nostre. Quindi passai rapidamente di grado dalla barca super povera che avevo collocato con l'automobile nello stand a una barca già più di prestigio olandese, che poi fruttò grandi risultati alla nostra azienda perché ne vendemmo molte molte dozzine. La sfida commerciale di Azimut prosegue e dopo la rappresentanza di Hammerglass ottiene quella di altri importanti cantieri come Powless e Westery, e avviene il passaggio dal commercio alla progettazione, e tra il 77 e l'85 l'azienda si sviluppa ininterrottamente fino a costruire in proprio e con i suoi mega yacht sbarca sul mercato internazionale. Questo avviene molti anni dopo, nei tardi anni 70, nei primi anni 80, quando con la costruzione dei primi Azimut fatti da noi cominciavamo a conquistare il mondo. E la conquista del mondo ha avuto tre o quattro passaggi storici molto appaganti. Uno è stato appunto la vendita a Winthrop Rockefeller, che poi si innamorò talmente delle nostre barche che decise di rappresentarci in Florida e fu un veicolo molto importante della nostra introduzione in America all'inizio degli anni 80. Un altro momento storico fu la vendita di un 30 metri estremamente innovativo a Christina Onassis. Christina Onassis aveva appena avuto la figlia Tina e la struttura di ingegneri, di manager super esperti di mare della famiglia cercarono una barca particolarmente adatta per celebrare la nascita di questa Atina, che avesse il nome di Atina e che fosse consegnata a Scorpio il giorno del battesimo. Fu così che fummo scelti, costruimmo la barca molto in fretta, molto bene, e la consegnai personalmente a Scorpio. Ricordo queste macchinette elettriche, questa cerimonia bellissima, e noi che arrivavamo dal mare con la barca che si chiamava Tina, con gli operai che la terminavano ancora durante la navigazione e che poi dietro il promontorio prima dell'isola scendettero su una barca di salvataggio per rimandare indietro che nessuno vedesse che avevano lavorato fino all'ultimo istante. Azimut Benetti si lancia anche alla conquista del Blue Ribbon, la sfidante traversata atlantica senza rifornimento. Il gruppo sale alla ribalta delle cronache internazionali. Con un design firmato Pininfarina nasce per l'occasione l'Azimut Atlantic Challenger. Quando tutto sembra essere pronto per la partenza, si scopre che il regolamento impone di trasportare almeno un passeggero pagante ed è una sorpresa nella sorpresa. A un certo punto, nell'anno 87-88, Winthrop Rockefeller si offrì di essere il nostro passeggero e andò a bordo e fu entusiasta di questa vicenda meravigliosa. Pensi l'esperienza di essere una barchetta da 85 piedi in mezzo all'Atlantico che cammina a 40 nodi, motorizzata con due idrogetti, tutta un po' primitiva perché l'avevamo costruita con l'artigianalità tipica di quell'epoca, e fu un'esperienza memorabile per lui, anche perché trovò un mare brutto e la barca saltò fra i marosi come non mai. Cresce il gruppo che si chiama già Azimut Benetti S.p.A. dopo l'acquisizione dello storico cantiere fondato nel 1873 dall'omonima famiglia, e prosegue sulla strada della politica degli investimenti nazionali ed esteri. E crescono anche le idee, come quella di realizzare porti che non siano semplici aree di approdo, ma centri turistici, come le marine di Varazze, Viareggio e Mosca. Nel 2007 il gruppo viene premiato da Confindustria come campione della crescita. Giunto all'apice, Vitelli pensa non solo al presente, ma anche al futuro dell'azienda e racconta come vive il passaggio generazionale e come andrebbe affrontato in azienda. Tanto diciamo pure che questo è il tema più importante per me. Non fosse stato il più importante, avrei quotato l'azienda in borsa, avrei portato a casa un po' di capitali e avrei lasciato il destino dell'azienda nelle mani di qualcun altro che ne avesse assunto il controllo. No, l'obiettivo è quello che l'azienda duri nel tempo, così come durano nel tempo le nostre barche, e che trovi quindi una guida per il futuro stabile che insomma permetta a qualche generazione di vedere la continuità dell'azienda. Allora, il primo passo l'ho fatto facendo crescere una squadra di giovani. Noi abbiamo dei quarantenni cresciuti dentro l'azienda, hanno imparato il duro lavoro, si sono appassionati alla nautica, hanno imparato a navigare, sanno cosa sono le barche. Adesso il problema sarà poi di guidarli. Per guidarli bisognerà che o qualcuno di loro diventi il capo o che si attenda che mia figlia possa diventare il capo. La notizia buona è che mia figlia sta appassionandosi fortemente al business e quindi abbiamo qualche anno di fronte per, sono anni contati i miei, ma qualche anno per vedere se mia figlia farà l'azionista e il management passerà nelle mani di qualcuno di questi giovani bravi, oppure se mia figlia potrà anche assumere un ruolo di management se sarà più bravo di loro. Quindi la sfida è fra loro. Sul versante del bilanciamento vita-lavoro, Vitelli ha una ricetta che ha come punto di approdo sempre il mare. Apparentemente sono perdente perché non ho mica tanto combinato, ho fatto prevalere l'azienda. Però ci sono due o tre aspetti. Primo, che bisogna fare quel che piace. E se l'azienda piace del massimo degli appagamenti, perché no? Secondo, bisogna rimanere umani, quindi bisogna saper dialogare con le persone, con gli amici, con l'attenzione al mondo esterno. E io spero che sotto questo aspetto qua di essere riusciti. Terzo, bisogna comunque far funzionare una famiglia. Io spero che se mia figlia assumerà un ruolo importante in azienda e a sua volta creerà una famiglia, la scommessa potrebbe essere vinta e io mi sono divertito lo stesso. Il mare è una grande passione, andare in barca è un momento di massima soddisfazione ogni anno e anche sublimazione, perché quello che si è lavorato, si è discusso teoricamente durante l'anno diventa concretizzazione ed è particolarmente piacere viverlo da utenti invece che viverlo dall'altra parte della barricata. Il fascino del passato a confronto con il presente. Chi vince? E Vitelli suggerisce anche per il futuro un messaggio che proviene da chi ha frequentato così profondamente e così a lungo il mare. Il bello rimane il bello, la passione, la gioia di vivere, il gusto, qualche volta anche di distinguersi, questo un po' meno, ma c'è sempre. Quindi le nostre barche puntano sulle direttive di sempre, sono la barca bella, sticcativamente appagante, che vada molto veloce. Potrei dire le barche hanno un'anima, quindi costruiamole col processo, col betido, ma ricordiamoci che dobbiamo dare un'anima a queste barche per far innamorare le persone, altrimenti il nostro mercato va restringendosi. La gente deve sognare e per farli sognare i valori reali, che sono appunto la produzione, che sono la genialità, la costruzione, devono rimanere in futuro più radicati rispetto a quelli della speculazione che ci hanno un po' travolto per qualche anno.